Papà, perdonami, vengo da te pentita dal giorno che io me ne sono andata. Legandomi a quell'uomo, che delusione è stata la mia vita. Papà, perdonami, ti chiedo una carezza, quella che tu nella mia giovinezza mi hai sempre dato. Ti prego aiutami, ti prego aiutami. E baciandomi sul viso mi asciugherai le lacrime, mi prenderai la mano come facevi un giorno e verso un nuovo mondo tu mi guiderai, tu mi guiderai. Papà, perdonami, che ingenua sono stata. Adesso so che cosa è la vita. No, non abbandonarmi, sapessi quanto, quanto son pentita. Ti chiedo una carezza, quella che tu nella mia giovinezza mi hai sempre dato. Ti prego aiutami, ti prego aiutami. E baciandomi sul viso mi asciugherai le lacrime, mi prenderai la mano come facevi un giorno e verso un nuovo mondo tu mi guiderai, tu mi guiderai, tu mi guiderai.